Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria. Mario Draghi, intervenuto oggi chiaramente al Parlamento europeo, ripresa a rischio, pesa l'aggiustamento dei conti, nel giorno in cui abbiamo saputo che la terapia del premier giapponese Abe non sta dando, per essere buoni, gli effetti desiderati, nel senso che quella che ormai è battezzata da tutti Abe Economics, che prevede grossi investimenti anche di carattere pubblico, non ha dato risultati sperati, nel senso che il Giappone è entrato in recessione e la borsa di Tokyo ha chiuso con un tonfo di quasi il 3%. Il PIL, infatti, giapponese tra luglio e settembre ha sancito il ritorno del Giappone nella fase di recessione tecnica, e appunto questa mattina male la chiusura di Tokyo, -2,96%, devo dire che anche Hong Kong in parte l'ha seguita, -1,15%. Nel giorno in cui, visto che parliamo di borse, invece Milano è positiva, è tra le migliori in assoluto, +1,32%, Parigi +0,50%, Francoforte +0,60%, Londra +0,30%, sono tutti, quasi tutti positivi titoli, tranne Autogrill che perde l'1,50 come Enel Green Power, Ferragamo perde lo 0,90, Mediolanum lo 0,70, Finmeccanica lo 0,60. Scusatemi, invece molto bene World Duty Free +5%, Yux +3,90, Monte dei Paschi +3,60, UbiBanca +3,20, Pop Emilia Romagna +3% come Unicredit, il 2,80 lo guadagna il Banco Popolare, il 2,5%, Saipem il 2,33% e ST Microelectronics e anche Unipolsai. Chiudo con chi guadagna più del 2%, cioè Mediaset +2,20 e Luxottica +2%, ma tutte positive oggi le banche italiane, ne parleremo nel corso dei mercati finanziari. Le borse sono migliorate anche dopo le parole di Draghi, che adesso vi faremo ascoltare. Dicevo, come temi, il fallimento, perlomeno la delusione, per non essere troppo definitivi, degli effetti della Abe Economics sul Giappone, che resta la seconda barra terza, perché si contende il primato con la Cina, economia al mondo. Per quello che riguarda il Giappone, sarà anche un'occasione per parlare del rapporto che esce domani, come ogni anno, della Fondazione del Centro Luigi Einaudi sull'economia globale e poi sull'Italia. Il titolo è già molto evocativo: un disperato bisogno di crescere. E questo appunto, quello che sta capitando al Giappone verrà utilizzato anche come schema per capire cosa sta capitando all'economia globale. Per quello che riguarda invece altri temi di questa giornata, avremo un'intervista con il segretario dei bancari, chi rappresenta il maggior numero di bancari. Perché? Perché domani si apre a Roma il Consiglio della Federazione Autonoma Bancari Italiani, FABI, il principale sindacato settore, 100.000 iscritti, e il congresso, o meglio consiglio, cade in un momento molto delicato per la trattativa tra le banche rappresentate dall'ABI e i bancari per il rinnovo del contratto, che riguarda 309.000 lavoratori delle banche e 37.000 lavoratori del credito cooperativo. Domani tra l'altro interverrà anche Alessandro Profumo nella sua veste di, oltre che di presidente del Monte dei Paschi, di presidente del Comitato Affari Sindacali Lavoro dell'ABI. Ne parleremo, già sono intervenuti ai nostri microfoni. E poi, in apertura, praticamente la vicenda AST, Acciaierie Speciali di Terni, perché oggi pomeriggio si è svolto l'incontro tra i rappresentanti dell'AST di Terni e i vertici della ThyssenKrupp per capire se il piano di forte riduzione, il piano di luglio, possa essere rivisto. E quindi il piano di luglio prevedeva lo spegnimento di uno dei due forni, l'aumento della capacità produttiva di uno dell'altro forno, ma lo spegnimento di uno dei due forni. Ne parleremo appunto tra brevissimo. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, volete sapere del petrolio? Sempre in calo a $75 al barile, però sul tema del petrolio oggi Halliburton ha raggiunto un accordo per acquistare Baker Hughes, sono 35 quasi miliardi di dollari, è un'operazione condotta in contanti e che arriva al termine di settimane di trattative fra i due colossi petroliferi americani. Che risentono comunque, come tutte le aziende del settore, del calo dei prezzi del petrolio. Sempre in tema di accordi, ma questa volta entriamo nel mondo della farmaceutica, Actavis ha acquistato il produttore del Botox, Allergan, per $66 miliardi, hai capito? L'accordo è valutato $219 per azione e creerà praticamente uno dei 10 gruppi farmaceutici più grandi al mondo. Giappone, ripeto, ne parleremo nella seconda ora. Da quello che abbiamo visto, il calo dell'1,6% del PIL nel terzo trimestre del PIL giapponese è un calo significativo, è un calo che si confronta con un anno, con l'anno precedente, quindi meno 1,6 rispetto a un anno prima. Sulla flessione, da quello che si è visto, hanno pesato soprattutto il calo della domanda interna, dei consumi, e soprattutto la decisa riduzione delle scorte delle imprese. A penalizzare comunque la crescita avrebbe anche contribuito l'aumento dell'IVA, che in Giappone è stata portata lo scorso aprile dal 5 all'8%. Dopodiché, ripeto, ne parleremo più avanti, ma è interessante vedere quanto ci hanno azzeccato le grandi banche d'affari sul PIL giapponese, perché le previsioni erano: Credit Suisse stimava più 3,5%, Morgan Stanley più 2,8%, Bank of America più 2,5%, Barclays più 2,2%, JP Morgan diceva che il Giappone avrebbe fatto più 2%, BNP Paribas più 1,6%, voglio dire, no? Ce li giochiamo sti numeri. Veniamo all'Europa. La banca HSBC è stata accusata dal procuratore federale del Belgio di frode fiscale organizzata, riciclaggio, organizzazione criminale e intermediazione finanziaria illegale. Hai detto niente. I sospetti riguardano l'attività di molti anni e dal valore di molti miliardi sui interventi illegali che sarebbero stati compiuti in Belgio nella gestione dei patrimoni di una clientela molto agiata, molto ricca. Il danno al fisco belga è stimato in centinaia di milioni di euro. L'economia tedesca, lo deve ammettere anche la Bundesbank, la banca centrale guidata dall'anti-Draghi Weidmann, l'economia tedesca, dicevo, è ferma in questa fine d'anno. Lo dice la Bundesbank, manca uno slancio allo sviluppo, l'economia tedesca continuerà a stagnare fino alla fine dell'anno. Le aspettative ancora offuscate sul fronte degli affari e la stagnazione negli ordinativi sono un segnale della mancanza di slancio dello sviluppo economico in Germania. E, fatta l'analisi, datevi anche la risposta. Evidentemente la Germania sta subendo la frenata, stagnazione, recessione dei grandi paesi europei. Motivo di questa frenata? Beh, usiamo le parole usate da Mario Draghi oggi al Parlamento Europeo. Lo slancio di crescita della zona euro si è indebolito durante l'estate e le recenti stime sono state riviste al ribasso. La ripresa è messa a rischio dall'alta disoccupazione, dalla capacità produttiva inutilizzata e dai necessari aggiustamenti di bilancio, cioè i conti. I rischi delle prospettive economiche restano a ribasso anche, aggiunge Draghi, per le riforme insufficienti. 2014 has been a year of profound change. Il 2014 è stato un anno di profondi cambiamenti, ma quello che è stato raggiunto finora non è abbastanza. Il 2015 deve essere l'anno in cui tutti, nella zona euro, dai governi alle istituzioni, mettano in atto una strategia comune per riportare in carreggiata l'economia. La politica monetaria da sola non sarà in grado di raggiungere questo obiettivo. Ecco perché c'è urgente bisogno di accordarsi su impegni a breve termine, sul fronte delle riforme, su un'applicazione conseguente del patto di stabilità e crescita, su una strategia per investimenti e su una visione a lungo termine per condividere maggiormente sovranità. Poi ascolteremo nella seconda ora altri passaggi dell'intervento di Draghi, che ha detto che serve un impegno sulle riforme e gli investimenti, la politica accomodante, la politica monetaria accomodante, cioè i bassi tassi e i prestiti fatti alle banche da parte della Banca Centrale Europea non raggiunge ancora i cittadini, le misure della Banca Centrale Europea funzionano, ma occorre avere e dare più tempo per vederne i benefici. Allora, ultima notizia prima di passare alla vicenda AST Terni, nell'incontro di oggi in Germania dei sindacati, il commercio con l'estero. Questa finalmente è una buona notizia. E infatti a settembre il nostro export ha fatto più 7,4% e anche in risalita rispetto a un anno prima, anche in risalita rispetto ad agosto, più 1,5%. Le importazioni rispetto a un anno prima hanno fatto più 3,3%, quindi abbiamo avuto esportazioni doppie come crescita rispetto alle importazioni, tant'è che l'avanzo commerciale, cioè la differenza tra importazioni e esportazioni, è a favore nostro, a favore dell'export, per 2 miliardi la differenza di euro. L'anno scorso, nello stesso periodo di settembre, furono solo 700 milioni. Tra l'altro, se leviamo la componente energia, che quella la importiamo quasi tutta, la nostra bilancia commerciale, se levassimo la componente energia, sarebbe positiva di 5 in surplus, quindi di 5,6 miliardi, non di 2. Dove è andato il nostro export? Germania più 6,6, Francia più 2,5, Spagna più 6,5, Gran Bretagna più 9, Russia meno 10, Stati Uniti, e la Russia sappiamo che è l'anello debole in questo momento, Stati Uniti più 13%, molto bene anche nei paesi produttori di petrolio più 20%, Cina più 10, Giappone, e non a caso oggi commenteremo la recessione giapponese, meno 3%. Ed è dedicato proprio a questo il commento, come sempre, dei vice direttori del Sole 24 Ore per i 100 secondi di Radio 24 e RDS. Oggi il commento è di Salvatore Padula. Monte dei Paschi di Siena, banca dal 1472. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Di questi tempi non è facile trovare dati economici positivi. È di pochi giorni fa la notizia che nel terzo trimestre di quest'anno il PIL è diminuito dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti. E ha fatto ripiombare l'Italia in recessione, peggio ancora, ha riportato l'economia italiana praticamente ai livelli del 2000. Oggi però una piccola luce la vediamo, è un piccolo segno di ottimismo che certamente vale la pena di cogliere. Nel mese di settembre le esportazioni delle nostre industrie sono cresciute del 7,4% rispetto al 2013, grazie anche a un calendario favorevole con un giorno di lavoro in più. Ma insomma si conferma che l'export continua ad essere la vera ancora di salvezza della nostra economia. E si tratta di un segnale importante per almeno due motivi. Innanzitutto perché da alcuni mesi il nostro export era in frenata, mentre ora si torna a crescere. Esportiamo molto nei paesi extra UE e andiamo bene anche all'interno dell'Unione Europea. Inoltre, al buon andamento dell'export si affianca una ripresa delle importazioni che crescono del 3,3% rispetto al mese di settembre del 2013, il che è un ulteriore segnale di dinamismo della nostra manifattura. Certo, non sono tutte rose e fiori e la strada per la ripresa è e resta molto molto lunga, ma insomma questi dati sono lì a ricordarci che fortunatamente una parte della nostra industria gode ancora di una discreta salute. Così appunto Salvatore Padula sui dati dell'export, devo dire sono tra le poche cose che stanno andando bene. Lo ricordava anche da Sydney il premier Matteo Renzi quando ha fatto quell'invito a non esagerare nel piagnisteo: gli italiani non sanno quanto siamo apprezzati nel mondo, siamo all'avanguardia lui lo ha fatto, lo ha detto mentre faceva un giro delle aziende italiane presenti in Australia. Dobbiamo uscire dalla logica di chi si piange addosso. Possiamo far risentire Renzi dall'Australia un attimo? Dobbiamo essere fieri e orgogliosi del lavoro che viene fatto dalle donne e gli uomini italiani in giro per il mondo. C'è una Made in Italy che non è soltanto il Made in Italy tradizionale, ma il Made in Italy dell'ingegneria, della qualità, dell'innovazione, dell'alta tecnologia. E forse gli italiani devono essere più consapevoli di quanti loro concittadini realizzano grandi risultati nel mondo. Il mondo globale ha grande fame di innovazione, bellezza e alta qualità. L'Italia può offrirlo se smette di vivere nel piagnisteo e prova a investire sul domani. E investire sul domani vuol dire anche però evitare di vedere, non possiamo fare programma su questo, le immagini che ormai è da quando piove, 2-3 settimane che guardiamo. Allora oggi il sottosegretario Del Rio ha detto: faremo un grande piano nazionale sul rischio idrogeologico. Purtroppo io un déjà vu su questo ce l'ho, comunque speriamo che sia la volta buona. E conseguenti interventi da fare. Il patto di stabilità non deve essere problema, il patto di stabilità interna, cioè il fatto che i comuni che hanno anche i soldi in cassa, pensate al comune di Olbia, se non ricordo male, ha i soldi per, ma non li può spendere per il patto di stabilità interna. Il patto di stabilità non sarà un problema per chi ha subito eventi catastrofici come il terremoto, eventi drammatici come le alluvioni. Come sapete, il governo è impegnato ad abbattere quasi del 70% il patto di stabilità, c'è una trattativa in corso con i comuni, non sappiamo come la legge di stabilità uscirà dal Parlamento, ma certamente il patto di stabilità non sarà un problema per i comuni che hanno subito gravissimi eventi catastrofici come appunto il terremoto, e non lo deve essere nemmeno per i comuni che hanno avuto eventi drammatici come questo dell'alluvione, come questi della Liguria e di altre regioni italiane. Quindi anche su questo abbiamo detto, è un'altra richiesta precisa dei sindaci, abbiamo detto di non avere timore, perché certamente il patto di stabilità per il ripristino delle opere pubbliche, per gli investimenti, per la messa in sicurezza non deve essere un problema. Ma noi non stiamo facendo chiacchiere, abbiamo depositato la legge di stabilità per il 2015 che ha quasi il 70% di sconto per il patto. Invece una cosa che è ancora a livello non formalizzato è il fatto che coloro che hanno avuto calamità e così via avranno una priorità nelle assegnazioni del patto di stabilità, quindi avranno sostanzialmente una libertà molto maggiore rispetto agli altri. Così appunto Del Rio, il sottosegretario Del Rio alla Presidenza del Consiglio. Adesso però ci spostiamo a Monaco di Baviera, dove oggi si è tenuto l'incontro tra i rappresentanti dell'AST di Terni e i vertici della ThyssenKrupp. Per il gruppo ThyssenKrupp c'era Markus Bistram, capo della divisione materiali, e per AST c'erano l'amministratore delegato Lucia Morselli e il responsabile del personale Arturo Ferrucci. E poi le rappresentanze sindacali. Allora, domani tra l'altro alle 10 vi sarà un incontro tra le parti presso il Ministero dello Sviluppo Economico e il ministro Federica Guidi ha già affermato che si tratterà ad oltranza. L'oggetto di oggi era capire se ThyssenKrupp avesse, diciamo, intenzione di modificare il piano di luglio, quello che prevede l'aumento della capacità produttiva di uno dei due forni attivi dalle 650.000 tonnellate l'anno a 1 milione l'anno, però con il conseguente spegnimento del secondo forno e da lì gli esuberi. Siamo in collegamento con Maria Antonietta Vicaro, che è segretaria nazionale UGL Metalmeccanici e che ha partecipato all'incontro di Monaco. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Allora, mi dica intanto com'è andata. Ma come come ci aspettavamo, l'azienda, comunque il board, ha confermato che il piano di luglio è praticamente quello che hanno in mente per rimettere in sesto i conti dell'est di Terni. Noi abbiamo chiaramente proposto alcune modifiche che sono state quelle oggetto dei 4 mesi di trattativa e i 27 giorni di sciopero. L'azienda chiaramente ha mostrato un timido intendimento di raccogliere le proposte fatte, ma le idee chiare che hanno sono quelle che passano attraverso delle verifiche che non sono sui 4 anni ma sui 2 anni. Quindi secondo loro, se dopo 2 anni i volumi e quant'altro non rispondono ai piani di bilancio, il secondo forno probabilmente ce lo giochiamo. E dopodiché sull'occupazione noi abbiamo chiesto comunque garanzie per gli esuberi dichiarati rispetto al fatto che dopo 2 anni, se ci fossero ancora persone che non sono uscite con le mobilità volontarie, l'azienda su questa si è resa disponibile comunque a fare un ragionamento che non sia di licenziamento coattivo. Quindi diciamo che quello che con il governo negli ultimi 4 mesi avevamo discusso sotto certi aspetti in parte è confermato e in altri no. Però ripeto, non avevamo grosse aspettative perché la mentalità tedesca, quella economica e finanziaria, ci porta quasi sempre a delle decisioni che vengono prese e che poi ricadono. Il sindacato in questa partita ha una grossa responsabilità, che è quella di non intaccare innanzitutto le buste paga, perché la cosa che è uscita chiara è che noi saremo disposti a fare eventualmente dei sacrifici se e quando l'azienda ci conferma la propria disponibilità a farne, e parliamo anche degli stipendi dei manager, dopodiché su delle garanzie che comunque vanno oltre i 2 anni. Quindi una trattativa che, ripeto, per chi ci ascolta, chiaramente dire 4 mesi di trattativa per concludere poco o niente. Faccio presente che quando ci siamo seduti a luglio al tavolo l'azienda parlava di 550 licenziamenti. Ecco, su questo la volevo infatti, mi scusi, perché il casus fu l'11 novembre, la messa in mobilità di 530 dipendenti. Poi voi avete ottenuto anche nella trattativa col governo, ricordiamolo agli ascoltatori però, anche un ridimensionamento di questa cifra complessiva. Sì, siamo passati da 550 a 290, di cui 140 già consolidate con delle uscite, quindi restano circa 150 lavoratori. Su questi, ripeto, abbiamo chiesto che alla fine dei 2 anni, se non dovessero uscire volontariamente con gli incentivi che l'azienda ha programmato, comunque l'azienda si rende disponibile a fare dei ragionamenti per la ricollocazione e reintegro in ambito aziendale, quindi nessun licenziamento che verrà comunicato senza accordo. Questo è in linea di massima quello che ha in mente il sindacato. Dicati. Allora, una cosa volevo chiedere però, perché non ho capito io, i due forni, perché il tema dei due forni non è un tema di dettaglio, nel senso che la Thyssen giustificava questi esuberi con la chiusura di uno dei due forni. Non solo. Sì. L'azienda ci ha praticamente detto che intende ridimensionare la forza lavoro, che è attualmente di 2700 persone, più circa 1 migliaio di indotto, comunque anche con il mantenimento dei due forni. È questa la cosa che chiaramente. Però in questo momento, mi scusi, così capisco anch'io, la Thyssen ha confermato che i due forni per ora resteranno aperti? Certo, okay. per i prossimi 2 anni assolutamente. Fra 2 anni va a vedere, e con il rischio che poi di tornare al piano di luglio. Bravo. Ho capito bene. Ok. Cioè della chiusura di uno dei due forni. E quanto alla capacità produttiva, perché non è un dettaglio. Confermata no, 1 milione l'anno? Allora, la capacità produttiva di ogni forno è di circa 650.000 tonnellate, quindi noi abbiamo chiesto un piano che prevede 1.200.000 tonnellate, proprio perché così manteniamo entrambi i forni. L'azienda per il momento si è attestata a 1 milione di tonnellate di colato. È chiaro che, ripeto, rispetto all'andamento di mercato, alle vendite, a quello che Thyssen è riuscito a fare in termini di commerciale, si gioca il futuro del secondo forno. Però noi abbiamo chiesto, siccome poi c'è una alternativa che è la produzione a freddo, perché l'azienda trasferirà anche la linea a freddo di Torino, parliamo di un investimento di circa 30 milioni di euro, anche su quello chiaramente il discorso dell'occupazione potrebbe avere dei riflessi positivi, perché non è detto che con la chiusura di un forno poi ci si debba rivolgere a licenziamenti. Quindi chiediamo insomma un ragionamento complessivo che però preveda innanzitutto il mantenimento dell'occupazione. Dopodiché c'è l'altro tema, quello della riduzione del costo del lavoro, degli stipendi per intenderci, sui quali l'azienda ci ha chiesto un risparmio di 12 milioni di euro, parliamo del 10%. È chiaro che su uno stipendio di 1.300-1.400 euro anche andare a togliere 100 euro al mese è un problema serio. E quindi anche su quello noi abbiamo detto che eventuali sacrifici si fanno, purché ci siano anche su altri livelli, e che comunque questi sacrifici sono plausibili nel caso in cui ci sia la certezza che Thyssen rimane su Terni e continua ad investire. Su questo devo dire che stasera il board aziendale, la prima cosa che ci ha detto ad apertura a confronto è stata quella che Thyssen vuole rimanere su Terni, non ha intenzione di vendere e ha intenzione di investire i 140 milioni di euro annunciati dal piano industriale. Beh, almeno questa, diciamo, è un'apertura, non dico buona notizia, sì, perché le notizie sono fatti, però sì, questo non è ancora un fatto, è una dichiarazione di intenti, però è una buona... Verrebbe scritto con un eventuale accordo. Esatto, domani voi incontrate il ministro Guidi dalle 10 in poi, sì, che cosa chiederete alla luce di quello che vi ha detto la Thyssen oggi? Sì, allora noi il ministro Guidi ormai lo conosciamo bene sotto l'aspetto gestionale, perché sono 4 mesi che... ci confrontiamo, sa bene, conosce bene le nostre richieste, ci ha dato delle aperture anche sul costo dell'energia, su quelle che sono le azioni che il governo può mettere in campo. C'è da dire però che la Thyssen ha detto che non vuole aiuti governativi, non è intenzionata ad accedere né alla Cassa Depositi e Prestiti né al Fondo Strategico. Ma perché? È perché secondo loro non sono strumenti che possono dare un futuro alle aziende, loro vogliono azioni di tagli sui costi che sono unici e duraturi rispetto a quello che invece secondo loro in Italia è diventato un malcostume, quindi ci hanno tra virgolette detto in maniera molto, molto drastica che utilizzeranno gli ammortizzatori sociali, ma non avranno comunque intenzione di accedere ad altri sostegni sociali. Questa è la dichiarazione di Thyssen. L'ho interrotta, dicevo, con il ministro Guidi domani. Il ministro Guidi domani ci ha dato, come ripeto, come sempre, la disponibilità ad aiutarci nel dialogo con l'azienda, un dialogo che spesso e volentieri non è stato di grande comunicazione, quindi... una sorta di mediazione che, ripeto, ha pochi strumenti, perché è un'azienda che ti dice che non vuole accedere a strumenti di finanziamento, che vuole portare avanti un piano che ce l'ha chiaro e non vuole che subisca modifiche. L'attività che può fare il governo in questa fase è quella di mediazione. Diciamo che comunque è una mediazione preziosa, perché senza questa attività probabilmente la trattativa si sarebbe già interrotta in maniera negativa qualche mese fa. In bocca al lupo anche per domani, grazie al segretario nazionale della UGL Metalmeccanici Maria Antonietta Vicaro. Allora, una risposta a un ascoltatore che dice: ma insomma è mesi che si va avanti con questa tirittera di Terni per 500 dipendenti, poi ridotti a 150, siete ridicoli con tutti i licenziamenti che ci sono stati. Allora attenzione, è chiaro che tutti i licenziati sono uguali, abbiamo spiegato altre volte che è ovvio che tu non riesci a seguire le migliaia, purtroppo migliaia di licenziamenti che ci sono stati in piccole imprese, e riesci più a seguire la grande crisi aziendale, chiamiamola così. Nella vicenda ST Terni c'è qualcosa di più, però, oltre al massimo rispetto ai dipendenti. C'è in gioco, visto che si salda con quello che capita Piombino, si salda poi nel mondo dell'acciaio, è il termine corretto, con quello che capita Piombino e con la vicenda, il futuro dell'Ilva, è in gioco il futuro stesso dell'acciaio italiano. Cioè, noi vogliamo ancora avere un ruolo nel mondo dell'acciaio, o come abbiamo fatto per la chimica e per tantissimi altri settori che sono stati elencare, vogliamo scomparire? Siamo il secondo produttore d'acciaio a livello europeo. chiaro che se tu vai a ridurre la produzione, oltre che un dramma esistenziale per i dipendenti, si pone anche un tema di politica economica, se si può ancora usare questa parola. Vogliamo restare in certi settori oppure no? Perché non c'è solo la ST Terni, ripeto, c'è l'Ilva, l'offerta per ora è sull'Indiana, c'è Piombino. Allora, con questo tris rischi di far saltare il banco dell'acciaio italiano in un autunno, per cui ecco perché la vicenda assume un ulteriore significato. Dopodiché, massimo rispetto e trattamento uguale per tutti i disoccupati, e ahimè se non li stiamo raccontando. Meteo, pubblicità e poi la borsa. Focus Economia. Minuti, andiamo adesso alla borsa e poi parliamo anche del contratto dei bancari. Partiamo dalla borsa con la dichiarazione di oggi, anzi di ieri per essere precisi, di Alessandro Profumo sul Monte dei Paschi di Siena. Consideriamo anche l'ipotesi di un'aggregazione. Ad oggi non si è presentato assolutamente nessuno da noi. Noi abbiamo un piano di ristrutturazione che abbiamo discusso con la Commissione europea, dobbiamo lavorare in modo intenso su questo, è quello che tutta la squadra e le persone di Montepaschi stanno facendo. Penso anche che con un ulteriore aumento di capitale dovremo ragionare seriamente su come remunerarlo e quindi anche un'ipotesi di aggregazione va considerata seriamente. Posso tradurre Profumo, se non si offende, insomma dobbiamo trovare i soldi per l'aumento di capitale e quindi va bene anche l'aggregazione. Tra l'altro lo stesso numero uno amministratore delegato di Montepaschi, Fabrizio Viola, ha detto di essere alla ricerca di investitori di lungo termine, e insomma di riffo di raffo, o uno ti entra nel capitale per partecipare all'aumento o l'aggregazione di fatto si realizza perché un'altra banca mette i soldi e ti fondi con quella banca. Detto ciò, la borsa ha reagito bene anche a questo e bene alle parole di Draghi. Draghi tra l'altro ha confermato che tra le nuove misure non convenzionali che la Banca Centrale Europea potrebbe prendere se la situazione lo richiedesse, c'è anche l'acquisto di titoli di Stato di bond sovrani, di titoli di Stato dei vari paesi. Lo ha ribadito oggi al Parlamento europeo. Questo è stato letto dalla borsa giustamente come l'ulteriore elemento, di dire, insomma, la rete di protezione della Banca Centrale Europea. Milano tra le migliori, più 1,33%. Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Partiamo da Monte dei Paschi, visto che abbiamo appena sentito le dichiarazioni di Profumo ieri a Sky, più 3%. Sì, esattamente. Monte Paschi, come ricordavi tu, grazie alle parole di Profumo e a quelle di Viola, fin dal mattino è stato un titolo sotto i riflettori di Piazza Affari. Il mercato scommette che quindi qualcosa ci possa essere, almeno la speculazione in questo momento sta puntando su questo. Il titolo ha guadagnato il 3,05% e appunto guadagnava anche prima delle parole di Draghi, che poi sul finale hanno messo le ali a quasi tutti i titoli bancari. Poi c'è la vicenda invece che non c'entra nulla di World Duty Free, più 5% il miglior titolo, qui è la trimestrale di venerdì, no? Sì, esattamente, conti che sono piaciuti al mercato, è piaciuta anche la conferma dei target sul 2014, quindi il titolo è tornato a un passo dalla quota dei 7 euro che non tocca da più di un mese, da inizio ottobre, e sul finale appunto ha chiuso con uno sprint ulteriore a più 5,13%. Il resto dei titoli, a partire anche dagli altri bancari, da Telecom e dalla Cassa dei risparmi di Genova, dove c'è l'ipotesi di un interesse della banca spagnola Santander, dopo il traffico 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. Di nuovo in diretta. Allora, Paolo Paronetto, dicevamo delle altre banche, a partire dalla Cassa dei risparmi di Genova, tutte in ripresa: UbiBanca più 3,41, Pop Emilia Romagna più 3,40, Unicredit più 3,20, del Monte dei Paschi abbiamo già detto, Banco Popolare più 3%, Pop Milano più 1,90%, e avevo visto anche Intesa, eccola qua, Intesa San Paolo più 1,70%. Per quello che riguarda poi i migliori e i peggiori, ci arriviamo dopo. Paolo? Sì, le banche appunto sul finale sono tutte salite grazie alle parole di Draghi, che hanno premiato in particolare per primi proprio i titoli bancari, mentre Carige è l'altra eccezione che saliva insieme a MPS anche prima, e in questo caso si parla appunto di un possibile interesse del Santander, anche se ricordiamo che il nome del Santander esce praticamente sempre in questa fase, era uscito sì. per MPS, essendo una delle banche con più risorse a disposizione e avendo dimostrato in passato interesse per il mercato italiano. Ricordiamo che aveva comprato Anton Veneta poco prima di venderla per una somma molto ingente proprio a MPS. E Carige comunque ha chiuso con un più 2% la giornata. Telecom? Telecom, ricordiamo che nel fine settimana sono uscite indiscrezioni su un possibile aumento di capitale allo studio per sostenere l'integrazione in Brasile con Oi. E Telecom ha smentito questa mattina, prima dell'apertura, dicendo che non ci sono operazioni di questo tipo allo studio. Il titolo ha sofferto in avvio e poi, man mano che la borsa è migliorata nel pomeriggio, è riuscito a riconquistare il segno più e ha chiuso in rialzo dell'1,28%, ma naturalmente rimane sorvegliato speciale proprio in attesa di sviluppi in Brasile. Poi abbiamo anche avuto un titolo come Enel, oggi un po' ballerino, eh? Sì, anche Enel continua un trend abbastanza negativo dopo l'annuncio di un aumento del target 2014 sul debito. Anche in questo caso alla fine il titolo ha approfittato del rialzo generale dell'indice e ha chiuso in positivo, anche se si è fermato a più 0,49%, quindi facendo decisamente peggio dell'indice generale. Ancora tra i titoli oggi in evidenza, dicevo, di negativo poca roba: Autogrill meno 2,51, Enel Green Power meno 1,40, Finmeccanica meno 0,80, Ferragamo meno 0,60%, come Moncler. Migliori e peggiori in assoluto sono allora, eccoli qua, scusate, Bialetti Industrie più 23%, Ergi Capital più 29%. Ma che è successo su Bialetti e Ergi Capital? Ergi Capital non lo so, Bialetti ha dato i conti venerdì, conti giudicati positivi, e tra l'altro ha annunciato di essere vicino al raggiungimento di un accordo con le banche creditrici per la revisione del piano di salvataggio. Bialetti è in corso la ristrutturazione del debito, non aveva rispettato i covenant, ma le banche sono disposte a trattare un nuovo accordo. E per quello che riguarda poi gli altri titoli, Mondadori bene più 7%, Mertecnemon più 5,50%, fronte opposto Premuda meno 6,70%, Novare meno 5,80%, Gas Plus meno 4,90%, e direi ed Email meno 5,20%. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corri Sole 24 ore. Noi restiamo in tema di banche, ma per parlare del contratto dei bancari. Domani si apre infatti a Roma il Consiglio della Federazione Autonoma Bancari Italiani, la FABI, che è il principale, non l'unico, sindacato del settore, 100.000 iscritti, mentre è ancora in corso la trattativa con l'ABI, con chi rappresenta le banche italiane, sul rinnovo del contratto dei bancari, che riguarda 309.000 lavoratori delle banche e 37.000 del credito cooperativo. Per i banchieri, l'abbiamo avuto ospite anche Profumo su questo, la riduzione strutturale della dinamica del costo del lavoro e il rafforzamento del secondo livello sono elementi imprescindibili per fare partire il negoziato. I sindacati lo giudicano un atteggiamento inaccettabile. Buonasera intanto al segretario generale della FABI, Lando Sileoni, buonasera. Buonasera, buonasera, dottore. Domani Profumo arriverà e interverrà nel vostro consiglio, no? Sì, è previsto intorno alle 13.30 a Roma un faccia a faccia fra me e lui sul contratto nazionale. Ecco, rispetto all'ultima volta che vi abbiamo avuto assieme, dopo, facciamo una cosa adesso al GR24, poi vorrei capire, rispetto all'ultima volta che vi abbiamo avuto assieme, se qualcosa si è mosso, perché loro chiedono di ridurre il costo del lavoro e di dare più forza al secondo livello. La banca buona è una cosa, la banca in grosse difficoltà è un'altra. La risposta me la dia però dopo il GR24, 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Focus Economia. 18:09, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, stavamo chiedendo al segretario del principale sindacato dei bancari italiani, la FABI, e mi riferisco a Lando Sileoni, che cosa è cambiato, visto che domani iniziate il vostro consiglio della federazione, rispetto alle richieste dei banchieri, e quindi riduzione strutturale della dinamica del costo del lavoro, rafforzamento della trattativa di secondo livello, quella diciamo che va a diversificare tra banca e banca rispetto al contratto nazionale. Sileoni. Ma diciamo che è cambiato poco. Abbiamo fatto un passo in, dal nostro punto di vista abbiamo fatto un passo in avanti, tre indietro, perché l'ABI ci riconosce un aumento sull'inflazione pregressa reale d'attesa pari all'1,85, noi abbiamo chiesto oltre il 6, però ci condiziona questo pagamento con il blocco strutturale, cioè il blocco per sempre del TFR e degli scatti d'anzianità, che significa che ogni lavoratore dovrebbe perdere 1.700 euro in tre anni, e questo per noi, come lei può ben capire, è inaccettabile. Sì, su questo vi faccio notare che dipendenti del settore bancario sono attualmente circa 309.000, dal 2008 avete avuto una diminuzione di dipendenti di 28.000 unità e chiusi oltre 1.000 sportelli. Però mi faccia fare il ruolo delle banche. Se le banche hanno sofferenze in Caglia, se vediamo quanto monteranno, 177 miliardi, cioè c'è una difficoltà oggettiva del settore bancario, è immaginabile che come in altri settori chiedano la riduzione dei costi del lavoro e di avere una trattativa più che altro orientata sul secondo livello, nel senso sul... Perché se la banca invece ha conti buoni, non ha grossi problemi, può avere degli integrativi. Se la banca è messa in estrema difficoltà, è chiaro che non li può operare, no? Guardi, allora, iniziamo dalla sua prima considerazione. Intanto i posti di lavoro che abbiamo perso dal 2000 a giugno sono circa 40.000 e ne perderemo altre 28.000 da giugno di questo anno fino a tutto il 2020. Questo perché nei piani industriali dei grandi gruppi bancari abbiamo portato avanti, concordato con le banche, una politica di esodi incentivati verso il prepensionamento. L'aspetto dal nostro punto di vista veramente drammatico è il seguente, cioè le banche chiedono dei risparmi strutturali, no? E chiedo dei risparmi strutturali che, come le dicevo prima, costano circa 1.700 euro in tre anni, e questi risparmi strutturali per noi sono inaccettabili. Io, se lei me lo permette, una proposta la farò domani a Profumo, ce l'ho. Siccome come dire, hanno questa voglia di risparmiare strutturalmente, sarebbe sufficiente, chi mi conosce sa perfettamente che non faccio mai demagogia, dottore, sarebbe sufficiente che i 300 super manager sì, per la durata del contratto, per tre anni, si abbassassero del 30% il loro stipendio, parliamo di una media di 1.900.000 euro l'anno, e loro non solo darebbero un grandissimo segnale verso la pubblica opinione, verso la clientela, ma darebbero loro l'esempio. Quindi se proprio dobbiamo parlare di risparmio strutturale, vogliamo iniziare da qui. Per noi non siamo contrari a trovare delle soluzioni, ma deve essere chiaro, come l'abbiamo detto in ABI nell'ultimo incontro di qualche giorno fa, che le soluzioni vanno trovate all'interno della durata del contratto nazionale. Quindi per noi veramente è inconcepibile, e non lo faremo mai, domani questa cosa emergerà con tutta la sua chiarezza, come dire, strutturalmente bloccare TFR e scatti d'anzianità ai 309.000 addetti del settore. Le aggiungo un altro aspetto, la nostra non è un'organizzazione che fa demagogia, noi siamo il sindacato più grosso e abbiamo sempre gestito con grande responsabilità i cambiamenti in atto in questo settore, però dopo il Consiglio nazionale nostro, cioè il giorno dopo, c'è il 19 l'esecutivo ABI, quindi io mi auguro che Profumo faccia ragionare i banchieri, perché nel caso in cui noi il 25 e il 26, quando ci rincontreremo con le banche a Milano, se questa posizione non cambierà, poi sono loro che si troveranno a assumere la responsabilità della rottura di fronte alla pubblica opinione. Tenga presente che noi veniamo da una giornata di sciopero, quando ci disdettarono il contratto qualche mese fa, con un'adesione altissima, abbiamo toccato punte del 90%. No, devo dire che molti ascoltatori che immagino essere bancari in questo momento scrivono una cosa analoga, cioè perché sono aumentati i compensi degli amministratori, uno dipendente di un credito cooperativo, fate partecipare a tutti i sacrifici, che se ne vadano i dirigenti incapaci, gli incagli non li abbiamo fatti noi, cioè i prestiti che poi non riescono a rientrare non li abbiamo decisi noi. Però mi dica una cosa veramente per concludere, Sileoni, l'aspetto simbolico e comunque anche numerico lo capisco, ma non è che si risolvono i problemi tagliando, capisco, cioè, posso essere anche d'accordo che il segnale deve arrivare dal vertice e tu non puoi avere compensi invariati o addirittura un aumento se chiedi sacrifici agli altri, però non è che tagliando il 30% le remunerazioni dei manager risolvete il problema degli... Ma lei, sì, ma lei è perfettamente, lei è un professionista del settore, sai che cosa del settore bancario, no. Questo del settore finanziario, lei sa perfettamente che come dire, le banche scontano questo grande isolamento, no? Perché siamo sotto attacchi, in parte giustamente, in parte no. Lei sa che cosa significa, che segnale sarebbe questa di grande attenzione verso la pubblica opinione, il 30%, non è che questa gente muore di fame. No, no, ma io sull'aspetto simbolico, politico, oltre che economico, la capisco tutta, dico non è che risolvi i problemi di settore bancario solo tagliando il 30% ai manager, fermo restando che il messaggio sarebbe chiarissimo e netto, non lo metto in discussione. Dottore, io ho parlato a lei perché qualcuno mi ascoltasse, noi, e la ringrazio di questo, noi vogliamo trovare le soluzioni, come abbiamo fatto nell'ultimo contratto del 2012, all'interno della durata del contratto, che secondo noi, secondo le banche, forse è l'unico aspetto che abbiamo in comune, dovrà essere di 3 anni. Se non troviamo le compensazioni all'interno di questi 3 anni, poi ognuno andrà per la strada sua. Cioè, le dico questo, cioè noi non possiamo assolutamente firmare, come dire, una resa in cambio di un riconoscimento del diritto a sopravvivere. Questo per noi è inconcepibile. Va bene, in bocca al lupo per domani e poi per la trattativa. Grazie a Lando Sileoni, segretario generale della FABI. Traffico. Focus Economia. We need to remain alert to possible downside risks on our outlook for inflation. Dobbiamo restare allerta sui rischi al ribasso dell'inflazione, in particolare in presenza di uno slancio economico indebolito e dinamiche del credito ancora deboli. È necessario dunque monitorare da vicino la situazione e continuamente verificare che le linee della nostra politica monetaria siano appropriate. Se sarà necessario affrontare i rischi di un periodo troppo prolungato di bassa inflazione, il Consiglio è unanime nel suo impegno di usare strumenti non convenzionali aggiuntivi all'interno del suo mandato. La politica monetaria da sola non può superare la frammentazione nell'area euro. La frammentazione riflette squilibri presenti nei diversi paesi e inefficienze a livello istituzionale. National imbalances and institutional deficiencies. Questo è un altro passaggio dell'intervento del Presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi oggi al Parlamento Europeo. Il primo l'abbiamo già fatto ascoltare, un primo passaggio all'inizio del programma, ed è in quell'intervento che Draghi ha detto tra le misure non convenzionali che la Banca Centrale Europea potrebbe prendere se la situazione lo richiedesse, c'è anche l'acquisto dei titoli di Stato dei paesi dell'area euro, dei bond sovrani, quello che insomma la Bundesbank e la Germania vede come fumo negli occhi. Professor Mario De Aglio, buonasera. Buonasera a voi. Lei insegna economia internazionale all'Università di Torino e domani tra l'altro presenterà il 19° rapporto del Centro Luigi Einaudi sull'economia globale, l'Italia, dal titolo Un disperato bisogno di crescere, rapporto realizzato anche con UbiBank e Asso Lombarda. Le parole di Draghi arrivano nel giorno in cui, come ricordavamo in apertura, è arrivata una delusione pazzesca dal Giappone. Meno 1,6% il PIL giapponese nel terzo trimestre è tornato in recessione tecnica ed è il fallimento della Abe Economics. Cos'era la Abe Economics? Un grosso investimenti pubblici, stimolare gli investimenti privati. Tra l'altro il PIL ha fatto meno 7% nel periodo aprile-giugno. E invece oggi vediamo che cala la domanda domestica con una decisa riduzione delle scorte delle imprese e a penalizzare la crescita giapponese ha contribuito anche l'aumento dell'IVA portata dal 5 all'8%. Tant'è che il ministro delle politiche economiche e fiscali giapponese Akira Mari ha ammesso che l'impatto dell'IVA è stato più grande delle attese, come dire, ha vanificato tutti gli sforzi di far ripartire la domanda interna tramite investimenti e bassissimo costo del denaro inesistente. Allora, come teniamo assieme quello che sembra un fallimento della Abe Economics con le parole pronunciate oggi da Mario Draghi? Ma lo teniamo assieme con questo, che non sappiamo più come va l'economia. Cioè, in questi anni l'economia non è soltanto andata in una crisi normale, ma ha cambiato il suo modo di agire, il modo di produzione sta cambiando rapidamente. Oggi noi abbiamo delle spese fisse che arrivano al 90% del prodotto, si investe tutto subito e poi si spera di recuperare tutto, parlo dell'economia di internet, eccetera, nel giro di 18-36 mesi. Non ci sono degli effetti di lungo periodo che noi siamo abituati a calcolare da decenni e quindi ci troviamo spiazzati. Quello sul Giappone è soltanto l'ultimo di una clamorosa serie di errori che ha portato Banca Mondiale, OCSE, Fondo Monetario, eccetera, a rivedere continuamente al ribasso le cifre, cioè una brutta figura dopo l'altra. Sì, tra l'altro le faccio notare che le previsioni delle banche mondiali sul PIL giapponese erano: Credit Suisse dava più 3,5%, Morgan Stanley più 2,8%, Bank of America più 2,5%, Barclays più 2,2%, JP Morgan più 2%, BNP Paribas più 1,6%, ha fatto meno 1,6%. Per cui... quindi non è una piccola cosa, è proprio aver sbagliato totalmente l'obiettivo. A me ha fatto sempre, a me ha fatto impressione, quanto diceva qualche tempo fa un suo collega, mi riferisco all'economista Giulio Sapelli, dice: noi non riusciamo a capire non tanto l'origine della crisi nel 2007-2008, quella finanziaria, diciamo, lì abbiamo capito tutti cosa è successo, rischi che sono stati presi e spalmati hanno creato la bolla finanziaria, però non riusciamo più a leggere l'economia adesso, cioè a capire, ormai vogliamo, nei paesi anglosassoni la parte finanziaria è stata riassorbita di quella crisi. Anche lei mi sembra che stia ammettendo che c'è una incapacità di leggere che cosa è successo veramente, al di là dello scoppio della bolla per i rischi intrapresi dalle banche che cartolarizzavano i crediti, ci speculavano sopra, li impacchettavano e nessuno sapeva più dove erano finiti questi prestiti, rischi impropri. Ma adesso mi sembra che non si possa più dare solo la colpa, diciamo, all'eccesso di finanza facile degli anni precedenti. Anche lei ammette che c'è qualcosa che non riuscite a leggere, non riuscite ancora a scrivere una storia di quello che sta succedendo, di quello che è successo? Esattamente così. Secondo me è così perché quello che l'economia produce è cambiato radicalmente. Parliamo dei consumi della gente. 40 anni fa il 30-40% erano consumi alimentari, poi c'era il tessile, poi c'era la casa e l'auto. Adesso queste quattro voci qui fanno sì e no il 25-30% del totale. E che cosa abbiamo al posto? Abbiamo l'istruzione, la salute, lo sport, i viaggi, eccetera. Cioè tutte cose invisibili. Cioè tutti i servizi che la gente può comprare con un click o non comprare e che ha un andamento che avrebbe bisogno più dello psicologo che dell'economista. Perché a un certo punto la gente fa click o non fa click? E purtroppo le banche che lei ha citato, no, come tutti gli altri, non hanno gli strumenti per capire cosa fa l'uomo comune quando per esempio ha un bonus di 80 euro e decide a milioni di non spenderlo. Ecco, questa è la parte più delicata, vorrei essere molto prudente, però se voi, dico voi che la studiate l'economia, economisti ma anche gli analisti delle banche, non riuscite a leggere gli effetti, cioè il principio base di causa-effetto si chiama, se non ricordo male, di eziologia in filosofia, cioè il principio causale, io faccio una cosa, dovrei avere più o meno questo effetto, mentre nei decenni passati questo avveniva, tu sapevi che se abbassavi il costo del denaro la gente spendeva un po' di più, che se mettevi un po' di soldi in tasca venivano spesi, cioè, oppure c'era la variabile sfiducia, ma insomma le variabili le prendevate in considerazione tutte. Ora non è che rischiamo di fare politiche economiche strabiche, cioè che si basano sulla vecchia analisi dell'economia senza che ve ne sia una nuova, perché questo a me preoccupa, ci fosse una nuova vulgata, perfetto, a meno che non vogliamo riprendere il libro della Mazzantini, mi sembra, Mazzucchetti, che si chiama Lo Stato Imprenditore, cioè c'è chi sostiene anche nel mondo anglosassone che sostanzialmente bisognerebbe arrivare a un nuovo ruolo dello Stato, perché l'economia in questo momento non riesce a prendere una direzione classica, chiamiamola così. E temo purtroppo che ci sia del vero in questo, cioè l'economia lasciata a se stessa non sembra in grado di esprimere una direzione e non sembra in grado di andare per due giorni nella stessa direzione, cioè proprio c'è questa erraticità che poi corrisponde a una, se vogliamo allargare il discorso, lei parlava in termini filosofici, alla diversità di valori che ci sono adesso rispetto a quelli di una volta. Una volta erano chiari i gusti della gente e quindi prevedibili le loro decisioni, adesso sono molto più complicati. e quindi noi abbiamo un Draghi imbarazzato, un Renzi imbarazzato, un ministro dell'economia del Giappone che forse farà karakiri, non lo so. Ma insomma, e c'è il rischio abbiamo... che Abe stesso si dimetta a questo punto in Giappone. Per cui... Sì, Mazzuccato, chiedo Venia, se ho sbagliato il nome, il libro da Mazzuccato, lo stato imprenditore, va a studiare i fenomeni anche della Silicon Valley dicendo che sì, nascono nei garage, ma perché lo Stato ha fornito tutte le strutture, la sintetizzo, tutte le infrastrutture necessarie per costi che altrimenti nessuna startup potrebbe garantirsi. Sì, non è che mi senta molto meglio, professor De Aglio, adesso, perché se voi non riuscite a leggere le dinamiche causa-effetto delle iniziative politiche, qua si brancola nel buio. Mi scrive un ascoltatore, cosa c'è dietro l'angolo? Un altro angolo. Credo che l'ascoltatore abbia abbastanza ragione. Cioè non riusciamo a prevedere, cioè è vero quello, forse possiamo partire da questo, lo Stato può prevedere soltanto quello che fa lui, e tra l'altro sappiamo che è bene che non faccia le cose nel minimo dettaglio, che non torniamo indietro allo Stato che fa i bottoni, che fa le automobili, i panettoni, però probabilmente dobbiamo recuperare lo Stato il ruolo di quello che fa intanto delle regole buone. Mentre è una delle cose che abbiamo visto, pensiamo a tutte le multe che si sono prese le grandi banche internazionali, le regole non funzionavano, cioè non è solo questione di scrivere, è questione di farle funzionare e di attuarle. Ecco, questo non l'abbiamo più avuto, quindi lo Stato faccia le regole e le faccia funzionare e poi faccia delle infrastrutture di base che possono essere visibili, non visibili, noi in Italia oggi, cioè digitali abbiamo... o anche infrastrutturali, certo. Come sì, è chiaro, dice, lo Stato crea il terreno da gioco più agevole e poi lasci giocare le persone. Certo che poi le politiche economiche si devono orientare, devono avere anche un ritorno nell'opinione pubblica. Correggo un ascoltatore che dice seguite Keynes, fate spesa pubblica e poi vediamo. Attenzione, perché il messaggio che arriva da Giappone, adesso è chiaro che la componente IVA hanno sballato le previsioni, era un l'Abe Economics era un tentativo abbastanza keynesiano, investimenti pubblici, tassi di interesse bassissimi, inesistenti, per cui insomma il fallimento di quella roba lì non è che ci faccia star meglio, anzi. Grazie a Mario De Aglio, docente di economia internazionale all'Università di Torino. Domani appunto viene presentato il 19° rapporto del Centro Einaudi sull'economia globale e sull'Italia. Intanto comunque e come sempre da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.